non ha senso se per me, la mia vita senza te. Tell me when will be. Tell me when will be. miedo. Sino cuando, cuando canto, improviso el tiempo. Sorridente a canto a ver. Se vuoi dirmi di sì, devi dirmelo perché non ha senso per me. La mia vita senza te, dimmi quanto tu verrà. Dimmi quando, quando, quando, la migliore non è più. Forse tu mi bacerai. Dimmi quando sarà. Se vuoi dire